abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Da lavorare, vedo una squadra predisposta contro la volontà, vedo anche delle qualità, ma la costruzione della squadra è un insieme. Qualche settimana fa creavamo un po' di più, ma subivamo un po' di più, le ultime settimane creiamo un po' di meno, ma subiamo anche meno. Il secondo tempo è andato molto meglio del primo tempo, c'erano più soluzioni, più movimento, più velocità della palla. Allora, è un po' di tempo che vi danno, ora non vorrei essere esagerato, ma è un po' di tempo che sto guardando da vivo il mio funerale e penso che questo sia molto, che questo sia un vantaggio, no? Perché ti accorgi di tante cose, ma detto questo la società mi è vicina, mi sostiene e poi non so quello che possa succedere. Gira e rigira, l'argomento è sempre quello. Fai merenda con Girella. Buongiorno, Luigi Pardo, Giovanni Capuano. Di cosa parliamo? Di cosa parliamo? Beh, innanzitutto platea di tutti i convocati oggi. Oltre i limiti della capienza. Sembra Inter Torino. Bravo, peggio di Inter Torino. Domenica 12:30 a San Siro. Telecronaca su Mediaset Premium di Pierluigi Pardo, dove andrà avanti? Che quindi viene alle 17 in onda. Quindi stai prendendo l'impegno formale di essere qui alle 17:05. Vengo, avete sentito tutti, Claudio Schiattone, adesso vengo, l'avvisiamo. Grazie. Allora, ascoltatori di tutti i convocati, faccio un appello. Insieme a Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Fernato in regia, faccio un appello pubblico. Per favore, mandatemi messaggi di solidarietà, meglio telefonate 800 24 00 24, perché io devo fare la maestra dell'asilo con questi due qua che sono già infogliati, come si dice a Milano, con la storia della schedina. Entra a Pardo e dice: Capuano, senti la pressione? Ma la pressione de che? Ma fate i bravi. Fatta 4 3 a 0 3-0 di parziale. Ehi, fate i bravi, eh. Ehi. Allora, Milan, come la mettiamo? Montella e il funerale 0-0, brutto, con l'Aicab di Atene che non è certo il Real Madrid, nemmeno quello di questi tempi. La Lazio vince 9 partite in fila, è già qualificata ma non se la fila praticamente nessuno. L'Atalanta fa 1-1 e va verso la qualificazione. Ma non tutti è vero, a parlare l'Europa League cioè la fidiamo tutti poco. No, purtroppo. il Milan fa notizia. Milan fa notizia perché, ma no, non certo per AEK Milan, con tutto il rispetto, fa notizia perché c'è una dialettica aperta, perché c'è la possibilità che si cambi allenatore oppure no, insomma, perché le cose non stanno andando, non è certamente lo 0-0 in Grecia che preoccupa. Devo dire che abbiamo, secondo me, fatto bene a far sentire questo stralcio di Montella, perché si è capito, insomma, il tono assolutamente tranquillo, sereno e disteso, insomma, comunque forse fintamente disteso di Montella nel fare questa battuta, che poi troviamo in prima pagina sui giornali sportivi, che indubbiamente fa titolo, cioè assisto da tempo al mio funerale, ma insomma l'abbiamo sentita declinata col sorriso sulle labbra. Partecipa, no? Anche però al suo funerale. Cioè, il Milan è una squadra in involuzione costante, poi se vuoi diamo anche due numeri, perché Montella continua a dire che fa buone partite, che gioca bene, che manca solo la scintilla, ma il Milan sta sistemando le cose, gli equilibri, la qualità del gioco. A me sembra che il Milan giochi il peggio con il passare delle settimane. C'è una data d'inizio di questa crisi e secondo me Montella non è l'unico colpevole. L'inizio della stagione, di questo scalino. Dai, no, l'inizio della stagione era stato accettabile. Quando si alzava il livello il Milan perdeva, quando il livello era più basso il Milan faceva prestazione e vinceva. Sì. Da una data, che è il 24 settembre, Sampdoria-Milan 2-0, le parole di Fassone, l'attacco a Montella. Anche da Lazio-Milan. Da lì in poi il Milan ha smesso di giocare bene e di vincere anche contro le squadre di un livello inferiore. Voi sapete quante partite ha fatto? 9, 6 volte non ha segnato. Cioè non ci sono solo i problemi difensivi. Prima aveva sempre segnato, ad esempio. Secondo me questi sono numeri che confermano un processo di involuzione. La qualità del gioco è poca. La qualità che del gioco dica è poca. Signor Montella. No, ma non è quello solo il signor Montella. No, diciamo. Montella, nel senso che anche ieri ci ha raccontato che ha fatto una buona partita. No, ma infatti. Ieri è stata una buona partita per un quarto d'ora del Milan. Sono d'accordo. Io penso che Montella in cuor suo sia il primo deluso dell'andamento, nel senso, stiamo parlando di un uomo di calcio che fa questo lavoro, prima era calciatore e poi da allenatore da tanti anni, quindi conosce benissimo la differenza tra una stagione positiva e una stagione che non lo è. Al netto di tutte le attenuanti che ci sono per i tanti acquisti nuovi, è una stagione in questo momento molto deludente. No, quindi secondo, l'allenatore è normale è il secondo deluso, perché il primo deluso è un signore che si chiama Silvio Berlusconi. Sentiamolo. Vogliamo parlare dei risultati e il cinese si è sbagliato, scusa, lo dico io, mica lo dici te. Tu non sei più andato allo stadio, secondo me. No, non sono più andato. Mi guardo il Milan in televisione e sto male. Me lo immagino. Mi guardo il Milan in televisione. Io però sto male a sentire Berlusconi a dire queste cose. No, io per fortuna. Io sto male a sentire Berlusconi dire queste cose per perché fortuna. Qualcuno dovrebbe analizzare gli ultimi 5 anni allora anche di Berlusconi e i suoi soldi spesi sulle campagne. Cioè. Ragazzi, bambini, fate i bravi adesso. Bambini, fate i bravi. Devo parlare con una persona seria finalmente e un mio amico Paolo Condò perché qui non ne posso già più. Buongiorno, Paolino. Insomma, persone serie ce l'hai anche lì. No, dai. Qui, ma tenere a Badi scrittori seri. Ma no, tenere a Badi ragazzini è durissima. Io faccio ormai la babysitter. Qua. Prossimo romanzo sul golf. Domani giochiamo? Quattro mani. Parliamone bene. No, domani devo studiare. Domani è sabato, devo preparare la trasmissione di domenica. E studi domani pomeriggio? Io niente, ho la Liga. No, domani niente. Condò sente la pressione, sa che sono migliorato. Paolo è ossessionato dalla pressione altrui. Sì. Sentite, dai, partiamo dal Milan. No, partiamo dal Milan, poi andiamo sulla settimana europea delle nostre, da un pulpito privilegiato, da chi sa leggere le cose. Il Milan, dunque, dicevamo, a me non sembra una gran notizia, 0-0 con l'AEK Atene, squadra dimenticabile, è un Milan che non esiste. Sì, è un Milan che ieri ha giocato male, non ha giocato a niente il Milan ieri. C'è stato un palo preso da Montolivo su una situazione di gioco abbastanza estemporanea, un bel diagonale, ma non lo definirei una palla gol costruita. Ecco, e quindi è stata una partita a zero palle gol, sia da una parte che dall'altra. Però non penso che sia da collegare il fatto che non prendi più gol, sia da collegare al fatto che sei diventato davanti meno efficace, o meglio il contrario. Non credo che sia un prezzo che tu devi pagare per non prendere gol, perché ieri ho visto, l'ho detto anche a Montella nel collegamento, una pigrizia di smarcamento dei suoi giocatori veramente impressionante. Cioè l'AEK giocava con una difesa sempre schierata in modo abbastanza basico, non andava a disturbare la ripartenza dell'azione milanista, si piazzavano sulle linee di passaggio come ormai sanno fare tutte le squadre. Da lì quello è un punto di partenza per una squadra che attacca, deve cominciare a muovere gli uomini, a liberarli per costringere quelli a occupare altre linee di passaggio e rendere difficile il lavoro, muovere la difesa. Invece erano fermi, c'era quello che portava palla, che avanzava finché non trovava uno o due uomini a fronteggiarlo, e gli altri non dettavano alcun tipo di passaggio. E questo devo dirti che va al di là questo può toccare casomai la capacità motivazionale di Montella, perché ovviamente ogni allenatore Paolo, magari la squadra non ci crede più, magari i ragazzi, cioè, i giocatori non ci credono più. Abbiamo avuto chiari esempi l'anno scorso con l'Inter. È un po' presto il primo novembre per non credere. Ho capito, però se comincia ad esautorarlo, prima Capuano citava una data che è quella delle prime dichiarazioni di persone, 24 settembre, se comincia ad esautorare l'allenatore, sai Genova, come sono i giocatori. A Genova, sì. No, ma sono i numeri li abbiamo dati prima, prima di Genova, a parte le vittorie, ma l'asticella era anche più bassa, però ragazzi, il Milan le vinceva quelle partite lì. Il Milan aveva una sua identità, che è coerente con la comunicazione che il Milan, giusto o sbagliata che sia, ecco, la strategia di comunicazione del Milan di quest'anno, che è molto diretta, è molto disintermediata, se volete, no? Cioè, parla direttamente ai tifosi, l'ha fatto mille volte. A me piace, l'ho detto, non è che adesso siccome i dettagli non arrivano un conto non mi piace. È prendersela con Pallotta via Twitter e va benissimo come tipo di risposta, un conto è andare a minare equilibri che evidentemente già erano sottili, fragili. La cosa stonata è stato Mirabelli prima dell'Europa League, quella prima di Milan e K, nel senso che lì c'era stato 3-4 giorni prima una sostanziale dimostrazione di unità nonostante i risultati negativi, e quella dichiarazione invece non era certamente in linea. Però posso dire la cosa a Paolo Condò, che poi gli allenatori li conosce, sì, poi ci fermiamo per il traffico, ragazzi. Magari risponde dopo. Montella che da 3 settimane ci racconta ad ogni partita che adesso il Milan gioca bene, che è migliorato, che le partite sono buone. Lo fa perché ci crede e quindi ha la ricetta ed è convinto di essere vicino a trovare l'equilibrio, o lo fa, ed è il mio sospetto, perché oramai è richiuso in una sorta di difesa perché assiste a questo funerale, perché il funerale glielo fanno magari dentro anche dalla società con alcune dichiarazioni, Mirabelli eccetera. Perché se fosse il secondo scenario, io credo che dopo Sassuolo tanto vale cambiare. Bene, Paolo Condò risponde dopo il traffico. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Tutti convocati. Allora, mister Condò ci deve una risposta. Ci hai pensato? La prima cosa sulla quale volevo intervenire era quella considerazione di Pierluigi sulla comunicazione del Milan, che è molto vera, e cioè loro si sono rivolti direttamente al cliente, tra virgolette, cioè al tifoso. Questa è un'arma a doppio taglio, però, nel senso che quando le cose ti vanno benissimo, come succedeva quest'estate, un acquisto ogni 2-3 giorni, la squadra che entra trionfalmente in Europa League e parte bene in campionato, allora questa è la strategia perfetta, ti rivolgi direttamente, anzi vi ricordate la storia con Ilaria D'Amico la prima domenica quando non erano venuti neanche a parlare perché aveva avanzato qualche dubbio, i giornalisti cattivi fanno questo, noi invece siamo meravigliosi, guardate che squadra vi abbiamo fatto, guardate quali destini meravigliosi vi aspettano, non è come ve la stanno raccontando, e questo è perfetto, e non ci cade solo il Milan, ci cadono quasi tutti, se non tutti, se non a livello di dirigenza, a livello di allenatori, e vi faccio anche degli esempi. E poi quando invece le cose improvvisamente vanno male, come stanno a Milan, si ritorce immediatamente contro. Guardate un po' come erano i social quest'estate e invece come commentano adesso i social tutto quello che è avvenuto. Ma è una, voglio dire, Spalletti non c'è conferenza stampa nella quale non sorrida di qualche domanda di un giornalista. Sì. Ecco, e sono tutti quanti entusiasti, guarda come li piglia per il culo, che grande. Ma sta vincendo, Paolo, è facile. Esatto, quando vince è facile. Sta vincendo, Sarri dice mezza parola e ci sono legioni di tifosi del Napoli contro la stampa brutta e cattiva del Nord che va contro. Lo stesso Allegri, ecco, Allegri ha meno luna di miele con i tifosi della Juve, anche Allegri a un certo punto nel mezzo dei problemi dice guarda che io mi diverto poi a leggere quello che scrivete. Non è vero, non si diverte a leggere quello che scriviamo, ma perché, detto che ovviamente anche nella nostra categoria c'è un sacco di gente che lavora male, questo va sempre assolutamente anteposto, perché non è che ci siano gli angeli e ci siano i demoni tutti dalla stessa parte. Però comunque questa della comunicazione non mediata, quando le cose ti vanno bene, del rivolgersi direttamente al tifoso, al cliente, all'acquirente, ecco, sì, chiaro. E poi è quella che diventa un'arma a doppio taglio. No, però già oggi, Paolo, oggi cominciavo a vedere delle cose sui famigerati social dove ricordavano che Mazzarri si qualificava in un girone con Bayern City, Borussia, eccetera, con Ronica, con Grava, con sta gente qui, mentre Sarri va fuori. Quindi vedi anche tu com'è. Io però vorrei trasportare il discorso con loro, no, signori. Scusami, poi dovevo dimmi. Anche la risposta a Giovanni per quanto riguarda. Secondo me in questo momento è il traghettatore di se stesso. Cioè gli hanno tirato una croce sopra dicendo tu l'anno prossimo certamente, visti i risultati, non sarai l'allenatore del Milan, cercheremo di prendere Conte o chi per lui. Ecco, nel frattempo ci fai un favore se ti salvi, perché così non dobbiamo fare un altro contratto a qualcuno, non dobbiamo pagare stipendi a vuoto e così via. Questo è più o meno il discorso, non so se gli hanno fatti in questi termini così aperti, però la filosofia della situazione è questa. Sì. Adesso, questa è un'opportunità per Montella, nel senso, ha guadagnato vero... 6 mesi, può avere, se non fa altri disastri, se batte il Sassuolo domenica, se non perde male a Napoli e se poi infila il filotto, che avrà una serie di partite molto più abbordabili. Sì, però hai detto 3-6, Paolo? No, certo, ho detto dei 6, però perché non è stato cambiato Montella? Non è stato cambiato perché loro ritengono che eventualmente l'allenatore buono l'hanno già data l'anno prossimo, ecco, perché non è detto nemmeno prossimo. Che ci sia l'alternativa, perché no. Io capisco anche la difficoltà a immaginare ad esempio di portare Mazzarri. Mazzarri è un ottimo tecnico, però come la prenderebbe il tifoso del Milan? Ma poi Mazzarri giustamente vorrebbe 3 anni di contratto. Ma sì, come tutti gli allenatori di un certo livello. E il vero tema su Conte, secondo me, da quello che ho capito, Conte ha voglia di tornare in Italia, o comunque certo. Non mi sorprenderebbe vederlo in Italia e vederlo in una squadra anche che non è la Juve, cioè credo che abbia anche una certa voglia di rivincita anche alla luce dell'ultima polemica. Anche dopo le ultime che si è detto con Andrea Agnelli, escluderei. Tutto mi sembra assolutamente logico e conseguenziale, e il vero tema è, e questo anche proprio ci avvaliamo della chiarezza di comunicazione da parte dei dirigenti del Milan, è se non dovesse arrivare la Champions, cosa a questo punto piuttosto probabile, capire in che modo questo impatterebbe, perché chiaramente il Milan non finisce, però Fassone ha fatto anche capire, che devo dire con grande onestà, che c'è un piano B, che quindi che il Milan quest'anno ha anticipato gli investimenti, ha fatto il famoso all-in, e bisogna capire insomma se Conte con un budget magari non clamoroso qui. Ma un pochino meno clamoroso, però magari sì, perché magari la voglia di rivincita è tanta, e poi magari il Milan troverà altre risorse per riuscire comunque a finanziare un'altra campagna acquisti come questa. E comunque c'è da dire questo, cioè il Milan è più forte di quanto sembri in questo momento. Sì, sicuro. Questo è un momento nel quale tutto ti sembra disastroso, ma mi immagino soltanto un Conte con Bonucci, ecco, penso che il rendimento di Bonucci aumenterebbe in maniera vertiginosa. Però la cosa, secondo me, la cosa sulla quale si deve focalizzare Montella in questo momento è su questi 6 mesi di tempo che nelle cose potrebbe avere. In questi 6 mesi fai qualcosa. Certo, tanto sei già in uscita. Fai quello che credi, fai quello in cui credi. Se qualche grande acquisto che tu ritieni di dover mandare in panchina, mandalo in panchina. Sì, certo. Stai giocando con la tua pelle adesso. Chiarissimo, Paolo. Allora, vorrei traghettare loro signore, prima di salutare Paolo Condò, a un altro argomento: voto alla settimana italiana in Europa, Pardo. Beh, il voto in chiaro scuro, il voto è un 6,5. 6,5 complessivo. Eh beh, sì, andiamo Roma. Dall'8 della Roma al 5,5 del Milan, al 5,5 della Juve e al 5,5 del Napoli, al di là della sfortuna, secondo me, dell'infortunio di Goulam, di tutta la forza del Manchester City, però insomma non si può essere felici dopo una sconfitta, no, se chiaro. Sei felice dopo una sconfitta c'è qualcosa che non va. Guarda, io do 7, perché noi non dobbiamo abituarci a ritenere scontate vittorie ad esempio come quelle della Roma col Chelsea, perché noi era da tanti anni che quelle partite lì erano ingiocabili per le nostre seconde file, tolta magari la Juventus, erano ingiocabili. Noi portiamo la Lazio avanti, l'Atalanta è stata beffata ma di fatto è qualificata, il Milan si qualificherà, i suoi problemi sono tutti interni e non sono legati all'Europa League, la Roma ci ha fatto godere, il Napoli è nelle mani di Guardiola, poi magari da qui le prossime settimane facciamo anche 2 chiacchierate su cosa significa per Guardiola l'ultima partita da già qualificato, perché insomma ci sono dei ragionamenti da fare su come si è comportato negli anni scorsi. L'unica che io metto sotto l'asticella del 6 davvero per questa settimana è la Juve, per quello che non ha fatto vedere a Lisbona. Sì, mister Condò, lei che dice? No, io aggiungo anche il Milan, quello sotto l'asticella, perché il Milan è stato veramente deludente ieri. Però il Milan è sempre in queste settimane sotto l'asticella. Sì, però insomma l'Europa League può e deve essere la vera via alternativa. Il Milan c'ha questa grande scappatoia, la scappatoia della quale ha usufruito Mourinho con lo United l'anno scorso, non è arrivato tra le prime 4. No, però hai detto con lo United, Premier. Hai detto con lo United, detto, non con questo detto, Milan. Sì, vabbè, guarda che anche lo United prima di mettersi in moto l'anno scorso ci mise un po'. Comunque, tu dici sì, che chiaro, può ripercorrere quella parabola lì, anche chiaro, scendendo il Borussia Dortmund, magari l'Atletico Madrid. Ma guarda, la statistica dice che le squadre che vincono l'Europa League, anche se leggermente, sono in prevalenza quelle che la fanno dall'inizio piuttosto di quelle che scendono dalla Champions. Dopodiché è chiaro che scende l'Atletico Madrid, scende lo Shakhtar, speriamo. O il Napoli, una delle due. Ovviamente era un augurio al Napoli, sì, sì. Mio. Scende lo Shakhtar o il Napoli, così diventano automaticamente... Borussia Dortmund che non sta facendo granché, no. Però... ha pareggiato con l'Atletico in Madrid l'altro giorno. Sì, ecco, dico Atletico Madrid... Ecco, io per esempio non credo a un Arsenal capaci di arrivare fino in fondo. No, però Lazio e Zenit credo, forse sono superiori al Milan. No, credo, ma insomma, in questo, la Lazio sì, certo, la Lazio non c'è dubbio. Lazio non c'è dubbio, il Napoli diventerebbe l'automatico favorito, certo, ovviamente, certo. Volendola giocare. certo. E insomma, comunque, detto tutto questo, io mi tengo su 6,5 più o meno. 6,5 abbasso il Milan sotto il livello della sufficienza. Anche la Juve. E porto anche la Juve. E porto invece al 6 il Napoli, perché ha perso contro la squadra più forte del mondo, quella che secondo me quest'anno vincerà tutto. Ma io sulla Champions non sono così convinto. Ma Paolo, non ci sto capendo niente comunque in questa Champions, perché il Real che prende 3 fischi con il Tottenham, questo, il Barcellona 0-0 con l'Olympiacos, Borussia Dortmund, l'Atletico Madrid, questo è l'anno degli sceicchi. L'anno degli sceicchi, dopo tanti anni di investimenti, City e Paris Saint-Germain, anche folli, City e Paris Saint-Germain per me potrebbero essere, in questo momento secondo me le due squadre più forti d'Europa. A febbraio comincia completamente un'altra storia. La Champions ce l'ha insegnato mille volte, basta passare il turno e poi da febbraio si ricomincia. Sì, e poi è chiaro che quando sei messi in una squadra non la puoi mai dare per battuta, si gioca sempre a... però ecco, calcolando che sono anni che stiamo aspettando che vadano a Dama gli sceicchi, probabilmente quest'anno in modo diverso. Cioè, uno con Guardiola al secondo anno gli hai messo a disposizione tutto quello che voleva, e però ti ha creato una squadra celestiale, meravigliosa, gioca benissimo. E dall'altra parte hai preso Neymar e non è che hai venduto gli altri campioni che avevi. Sono due maniere diverse. Vabbè, dai, il festa Champions a Dubai o dove vuoi tu, Emirati Arabi, portami dove vuoi. Speriamo in Italia. Grazie, dai. Paolo. Esatto. Ciao a tutti. Ciao Paolo Condò. Facciamo tempo a sentire Francesco da Torino. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'intervento. La mia domanda è questa, o più che altro. Montella, cosa deve fare ancora di peggio di quando sta facendo adesso per essere esonerato? E poi, ancora una cosa. Ieri si è visto 11 anime perse che vagavano per il campo. Cioè, non so se la colpa di chi è, se non dell'allenatore. Non sapevano cosa fare con la palla, dove andare. Sembrava, ieri il tema era il 2 novembre. Ecco, la squadra di Milan ieri era il 2 novembre. Sì, andiamo sul macabro con Montella che ha parlato di funerale, eccetera, eccetera. Sì, ragazzi, sì. Che vuoi fare? Io sono d'accordo. Cioè, alla fine. No, ma è chiaro che ogni partita cammina sul filo. Non dovesse battere Sassuolo domenica. Cioè, l'allenatore è la sintesi del risultato di una squadra. Se le cose vanno meglio del previsto, l'allenatore è un figo. Se le cose vanno peggio del previsto, l'allenatore ha dei problemi. Cioè, non c'è molto da girarci attorno. Oltretutto, qui mi sembra, e questo sono d'accordo con Capuano, che non ci sia neanche un'evoluzione. Cioè, non è una stagione che è cominciata male e pian piano si cominciano a vedere dei frutti. Cominciata benino e che adesso stanno malissimo. Quindi che Montella sia... Non possa... Ma io, conoscendolo e stimandolo, penso che alla fine il primo deluso sia lui. Non credo che ci siano dubbi, al di là del suo stile, che è uno stile comunque sempre sorridente, sempre tranquillo, pacato, eccetera. Però io penso che lui sia incazzato come una ci mancherebbe altro. Che la squadra sta facendo. Ci mancherebbe altro. Allora, ci fermiamo per la borsa. Torniamo. 800 24 0024, numero verde. Bene, allora siamo tutti convocati. Convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da La Trap, le autentiche birre dei frati trappisti. Assapora il silenzio. Tutti convocati. Sì, si vince lo scudetto, noi vinciamo lo scudetto e sarà così, vi faremo vedere che sarà così. Se a te fa comodo scriverlo, a me non fa comodo parlarne. Per noi dirvi che siamo da scudetto ci è utile quanto dirvi che non siamo da scudetto, per cui scrivete che vi pare. Il nostro obiettivo, come ho detto fin dall'inizio, è cercare di star là. Dobbiamo star là il più possibile e arrivare alla fine sapendo di potercela giocare. Poi quando arriveremo alla fine sapremo giocarci le nostre carte e vedremo chi ne avrà di più per fare lo sprint finale. ognuno si crea la locandina che vuole, poi c'è il campo, si va dentro e si gioca e si guarda. Che occhiata! Probabilmente, signori Pardo, Capuano, penso troppo al lavoro, perché stamattina mi sono svegliato e ho pensato, però l'Inter gioca in casa col Torino, stadio tutto esaurito, Pardo che fa la telecronaca, mezzogiorno e mezzo di domenica, lì in Napoli che perdi pezzi, Gulam, non che ho nessun ruolo, senti la pressione. Gulam che si è fatto male, sì, Mertens che strisce in una gamba, la Juve che non si capisce bene. Guarda, e neanche allora Biasina arriva tanto. Posso solo dire una cosa per il sindacato telecronisti, e lo dico in una settimana dalla quale ho avuto il culo, perché poi chiamiamo le cose con il loro nome, di raccontare l'impresa più bella delle squadre italiane, che i telecronisti non c'entrano niente, no, quindi non portano né culo né sfiga. Oh, ma che vuoi? No, ma lo dico, cioè, io mi sveglio con questi pensieri, sarò malato, no, io non so neanche. Io passato buona parte pazzesco del mio mercoledì a Roma ed era pieno di gente mi diceva grazie, ma grazie, siete scemi. Buongiorno Biasin. Oh, mi raccomando. Buongiorno ragazzi. Biasin, l'anno voi scorso lo menavano i tifosi dell'Inter, quest'anno gli dicono grazie, incontrano in metropolitana. Sì. No, dai. Però insomma. Allora, Biasin è anche vagamente interista, quindi insomma, vagamente, diciamo, un pochino. Però scusa, abbiamo assistito. La recuperiamo, ragazzi. Sei simpatico, uno per volta. Non buoni, sei antipatico e cattivo. La recuperiamo, lo dico dietro al vetro, afferronato De Luca, eccetera. Quel momento drammatico da telefono azzurro di Biasin che in Giappone convince un gruppo di giapponesi a urlare Forza Inter. Una cosa proprio di uno squash vergognoso. Cioè, già De Luca lavora, De Luca già la sta trovando. Adesso fra 24 secondi. Oddio, De Luca corre, che succede? De Luca, che ha fatto? Ma che sembra, no. Steve Owett, un mezzofondista. Qua durissimo. Fabrizio, allora, il popolo nerazzurro comincia a crederci, sono segnali, no? Cioè, sì. Napoli qualche problema, è lanciatissimo, ma qualche problema fisico, e non sono esattamente mille i giocatori del Napoli, almeno dello stesso livello, la Juventus che è ancora così cos'ha, e l'Inter che invece riempie lo stadio per la partita con Fabrizio, Torino. Ti sta tirando in mezzo. Sì. Sì, ma non ce la fa. Allora, intanto il popolo interista ha più o meno sempre riempito lo stadio, certo non a questi livelli, questo è frutto anche dell'entusiasmo e ci mancherebbe altro, ma anche negli anni bui, bene o male, i 40-50 mila spettatori non sono mai mancati. Detto ciò, bisogna rimanere molto lucidi e attaccati alla realtà. La realtà è quella di una società che deve tornare in Champions League. In questo momento non c'è solo l'Inter, non c'è neanche solo il Napoli, ci sono 5 squadre per 4 posti. E siccome questo campionato è un campionato particolarissimo, dove le ultime perdono punti praticamente sempre, bisogna stare molto attenti e guardarsi le spalle più che guardare avanti. Ah, vabbè, mi sembra molto molto basic il signor Biasin, molto basic. Per arrivare al quarto posto bisogna stare attentissimi, perché io sto ancora aspettando la prima sconfitta. Prima o poi arriva la prima sconfitta. Ma guarda che roba, si misurerà la capacità di questa società alla resistenza, perché gli anni scorsi ci sono stati i filotti di vittorie, poi però alla prima sconfitta tutto si è squagliato. Io credo che invece quest'anno ci sia qualcosa di più concreto. Quando arriverà il momento brutto, che prima o poi arriverà, vedremo di che pasta è fatta questa vero squadra. Vero, Biasin, sei noioso da morire. È lucido. Ti meriti questa. Ecco, allora Biasin, dov'eri? C'era anche Nagatomo. Allora, ero su una funicolare appena fuori Tokyo e c'era questa scolaresca giapponese e tutti quanti erano incuriositi dalla presenza di questi occidentali che giornalisti. Che hanno riconosciuto? Sì, tra l'altro, no, assolutamente no. Tutto sembra Le mie interviste, chiedevo a tutti quanti questi bambini se conoscevano Nagatomo, da loro è un santo, cioè tutti quanti lo riconoscono come una divinità, e allora diciamo che li ho un po' aizzati verso l'Inter. Forse ho fatto più io per l'Inter che Nagatomo. E contro D'Albert soprattutto, Esattamente. Sta una macumba nei confronti del Paro D'Albert, adesso c'è tutto il Giappone contro. Esatto. Senti, ma che numeri hai con l'Inter da telecronista? Che ne so, ragazzi, ma poi i numeri cambiano quest'anno, buoni, cioè tutti hanno i numeri buoni quest'anno con l'Inter. Ho fatto ho fatto il derby, ho fatto Inter-Samp, ho e tranne che ha fatto Bologna-Inter, no, altri. No, dei numeri clamorosi con l'Inter. No, tutti i numeri. Tu Pier hai calciato il rigore insieme ai Cardi al 92. Sì, sì, sì, sì, ero io. Più attenti avranno riconosciuto, esatto. Sì, sì. Però Fabrizio Biasin, malgrado tutto, anche il fuso orario che non ha ancora recuperato, eccetera, è stato molto lucido. Ed è un discorso che ad esempio Pierpaolo Marino, che è nostro amico, fa sul Napoli, cioè la gestione di quella che sarà la prima sconfitta in campionato nel caso del Napoli, come momento per capire se questo processo di crescita c'è stato o no. Secondo me il campionato dell'Inter fin qui è stato fatto di sliding doors e all'Inter è sempre andata bene. Sliding doors, sì, sì, all'Olimpico, però, perché perdere alla seconda avrebbe avuto bene, mille significati, un buon segno, e prima o poi, ma certo, vabbè, ma guarda, prima o poi tutti io sono praticamente noioso sull'Inter, nel senso che l'Inter ogni settimana conferma quello che dico, cioè nel senso è una squadra che vince tutte le partite di poco, fra l'altro fateci caso, cioè non c'è mai una vittoria per 4-0, per 5-0 con un dominio clamoroso, però se la cava in tante situazioni. Secondo me la vera domanda è se crescerà dal punto di vista dell'organico a gennaio e dal punto di vista del gioco. Sì, non ha questo problema. L'altra cosa signor da dire Pellegatti, è che se pensiamo a quello che si diceva due mesi fa, agosto pieno, quindi mercato ancora aperto, si parlava di un Inter destinata a lottare per il sesto posto, perché c'erano altre squadre che avevano fatto un gran mercato, perché l'Inter era una squadra allo sbaraglio. Adesso che però cerchi di stravincere, Fabrizio. No, quello che voglio dire è che si vive di momenti e a volte probabilmente ci si dimentica che non esiste solo il mercato, ma esistono le società e soprattutto esiste la logica. La logica che secondo me oggi ha riportato molto bene Ausilio nell'intervista a Tutto Sport, dove non si cerca di disegnare un futuro che non esiste, ma si sta molto ancorati al presente. Sì, sì, sì, sì. Mi viene in mente, sentendovi parlare della gestione della prima sconfitta, il povero Troisi, ricordati che devi morire, mo me lo scrivo. Esatto. Io vorrei che Carlo Pellegatti, che saluto e ringrazio, mettesse ordine in questa brigata di pazzi, Capuano, Pardo e Biasin. Buongiorno Carlo. Sì, buon pomeriggio a tutti. Approfitto della tua esperienza, grazie. Come va? Guarda, sono mollemente sdraiato perché oggi sono tornato adesso da Atene e sto guardando un film e che mi ricorda il Milan, Ricomincio da capo con Bill Murray. E Ricomincio da capo è un po' l'emblema di questo Milan, perché pur cambiando società, pur cambiando giocatori, pur tenendo l'allenatore, e siamo un po' qui sempre nella stessa situazione di questo autunno che vede il Milan distaccarsi dai primi posti. E quindi però quest'anno un pochino più doloroso, perché francamente non se lo aspettava nessuno in primis io. Senti, con Montella che faresti? Guarda, la domanda è quella giusta, però sinceramente sono molto molto combattuto. Allora, l'alternativa è una sola, Rino Gattuso. Però a livello epidermico ti verrebbe voglia, magari per evitare di vedere queste partite, che a Montella sono piaciute sul piano temperamentale, ma l'ultima ieri, un po' come la partita di andata con le K, è stata una partita sul piano dello spettacolo abbastanza deludente. E allora dicevo, epidemicamente ti voleva, cambiamo. Però anche Rino Gattuso, visto la sua esperienza, visto che deve entrare in uno spogliatoio non di ragazzi, ma di anche se ha allenato già a Pisa e ambienti difficili, cioè alla lunga non è che abbia certezze a dirti bisogna cambiare. Quindi Secondo me deve solo uscire Montella. Montella è stato un po' tradito dal discorso del modulo, dello schema. Da lì il Milan si è un po' incartato, ha cambiato modulo nel modulo, ha cambiato giocatori mettendolo al servizio del modulo e il modulo al servizio dei giocatori, non sempre in maniera esatta. E quando ci si incarta, poi uscire si fa sempre un po' fatica. Chiudo per questo mio primo intervento dicendo anche che il Musacchio di ieri sembra veramente il fratello non forte del Musacchio che abbiamo visto. E poi volevo ricordarti che oggi è il 3 novembre, sono passati 90 giorni dal 3 agosto, giorno di Milan Craiova, e c'era questo entusiasmo, 70.000 spettatori, il nuovo fermento, la nuova primavera rossonera. Ebbene, sembra che siano passati tantissimi mesi. Carlo, ma secondo te Montella è convinto del modo in cui fa giocare il Milan in questo momento? Tu giustamente hai detto il modulo si incarta. A me ad esempio ha molto colpito che per 4 partite ha giocato Rodriguez nei 3, e non solo perché mancava Bonucci a un certo punto, ma per scelta, che è come dire si difende a 4 perché il Calabria di turno poi in fase di non possesso fa il quarto basso. Però non si può dire, perché Mirabelli ha detto che questa squadra deve giocare a 3. Cioè io ho l'impressione che Montella non sia nemmeno pienamente convinto. Ma indubbiamente il discorso del modulo l'ho citato prima io. Chiaro che il Milan è nato per il 3-5-2 con Conti e Riccardo Rodriguez. Perso purtroppo Conti, ha dovuto un po' adattarsi. Però il 3-5-2 è già diventato il 3-4-2-1-1-2. Suso ieri è entrato e ha cambiato proprio il trend della partita, come ha cambiato tutta la partita di Verona col Chievo, proprio perché in questo momento è il giocatore che fa la differenza. E questo potrebbe anche essere un altro aspetto, cioè proprio il discorso: a Montella non piace parlare sempre di schemi e di moduli, però indubbiamente si continua ad andare avanti a degli aggiustamenti di modulo e non si riesce mai a trovare il filone. Adesso ci sono partite abbordabili, si dice, ma se si gioca con la lentezza di ieri, ogni partita diventa difficile, perché le squadre avversarie si chiudono bene, occupano ogni spazio e diventa difficile. Abbordabile, devi vincere però, Carlo, e questo Milan non mi sembra neanche in grado di superare facilmente il Sassuolo. Allora, ultimo break, traffico, poi io torno con un'ultima domanda per Legati Biasin. Noi abbiamo bisogno di ognuno di voi. Domenica zero deleghe, tutti convocati. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta tutti convocati. Allora, voi giustamente avete parlato di moduli e di numeri. Io l'ultima cosa che invece voglio sottolineare con Carlo Pellegati, Fabrizio Vesino, ovviamente padre di Capuano, che sono qui con me prima di aprire le gabbie per la schedina. Certo. Io più che di moduli vorrei parlare di uomini e di giocatori, perché la differenza essenziale tra il Milan di quest'anno e l'Inter di quest'anno sta nel fatto che quelli dell'Inter ci credono, quelli del Milan magari anche no. Esattamente come succedeva a quelli che mettono la maglia nerazzurra quest'anno, che sono gli stessi, non i fratelli bravi, Carlo. Ma sì, ma io ci credono ancora o no? Io non voglio pensare che non credono ancora, anche perché la prestazione con la Juventus, pur venuta poi, diciamo così, una prestazione che poi non ha portato la vittoria, ha dimostrato che la squadra ci crede, che la squadra è abbastanza in sintonia con l'allenatore. La partita con la Juventus non è una partita di 20 anni fa, è una partita della settimana scorsa, cioè di una settimana fa. Quindi voglio dire, il Milan credo proprio che ci creda. Qualcuno del Milan mi parlava anche oggi, e in effetti non piace parlare di questa cosa, ma non è che sia un Milan, anche se non mi appiglio di solito io, fortunatissimo. Pensa a cosa diremmo oggi dopo questa vittoria non brillantissima, dopo se il palo di Montella fosse di Montolivo fosse stato un gol. E quindi è anche un Milan fortunato, però io come tennista ho sempre una vecchia regola: quando giochi bene prendi il nastro, la palla va là; quando giochi male o non giochi bene, la palla rimane di qua. Quindi la fortuna, parliamo della fortuna dell'Inter dei tre pali, però con la Roma e altri pali che hanno preso gli avversari. Però l'Inter alla fine poi porta a casa il risultato, e quindi questi pali diventano, non ci si dimentica presto. Quindi anche l'elemento fortuna va considerato. Lo metto però, attenzione, nel cahier de doléances lo metto come ultima cosa. Sì, come è giusto che sia. Grazie Carlo, grazie. Non trovi che sia così, Pierluigi? Hanno degli occhi diversi i giocatori dell'Inter. Ma sicuro. Il valore aggiunto è Spalletti, l'abbiamo detto, il fuori classe è Spalletti. I giornalisti che seguono l'Inter, i tifosi che seguono l'Inter, quelli dello staff dell'Inter, i giardinieri, come direbbe Florenzi, sicuramente, cioè nell'Inter tutto sta funzionando, e l'Inter è la squadra simbolo, secondo me, delle vittorie ottenute grazie proprio al cuore, al fatto di crederci fino all'ultimo, al fatto di non mollare mai, tutti questi gol nei minuti finali, tutte queste vittorie con un gol di scarto, cioè che è poi il discorso che diciamo prima, cioè o l'Inter secondo me cresce da un punto di vista tecnico, cioè fa un ulteriore salto di qualità, oppure rimarrà secondo me un'ottima squadra che andrà molto serenamente nella prossima Champions League, ma non lotterà per il titolo, perché secondo me per lottare per il titolo deve fare un salto di qualità, lo può fare attraverso il mercato e attraverso il gioco. Biasin, compra qualcuno l'Inter per chiudere? Ma intanto sono d'accordo con Pierre, secondo me la differenza in questo momento la fa l'organizzazione, cioè il fatto che l'Inter giochi da un mese a questa parte con lo stesso 11 iniziale Ha un difetto perché evidentemente la rosa è ristretta, ma porta anche dei vantaggi, cioè i giocatori cominciano a conoscersi e si vede. A gennaio è stato molto chiaro Ausilio: non si possono fare peripezie di mercato, perché il 30 giugno 2018 devi chiudere il bilancio a zero, però puoi fare quello che hai fatto l'anno scorso, cioè prendi Gagliardini con la formula del prestito biennale e obbligo di riscatto, e diciamo che aggiri quelli che sono i paletti. Poi voglio vedere se sei primo in classifica, se non prendi nessuno. Grazie Fabrizio, ecco. Grazie a voi, ciao ragazzi, ciao. Schedina. Pronti? Allora, aggiorniamo la classifica. Quattro pari, giusto? Parlo Capuano? Quattro pari, sì. Quattro pari, come avete letto anche sui social, di tutti i convocati. Striscia, però parlo in striscia da tre giornate, giusto? 3-0, sì. Sì, ma non una settimana. Ma continuiamo a pensare giornata per giornata. Non abbiamo paura di nessuno, ma rispettiamo tutti, in questo caso Capuano. Rimaniamo umili. Oh, ricordiamo allora, che l'anno scorso ho vinto io, tra l'altro. No, adesso non andiamo alla preistoria l'anno scorso. Allora, domani ore 18, Bologna Crotone. Chi comincia? comincia Capuano, perché parlo in striscia. Comincio io? Sì. Comincio io. Bologna Crotone 1. 1. Derby di Genova. Genoa Sampdoria, Pier. 2. X. Domenica 12:30 del Regionista Pardo Inter Torino. E beh, 1, se c'è Pardo. 1. Ore 15, Cagliari-Verona. 1. X. Chievo-Napoli. 2. 2. Fiorentina-Roma. 2. Ah, questa è una bella partita. X. Juventus-Benevento. Vai. 1. Mi dispiace che Capuano abbia dovuto dare per primo il pronostico di questa sfida così incerta. No, un abbraccio agli amici del Benevento, però dico 1. Ecco, registrate perché... Lazio-Udinese. 1. Cazzudinese 1. Atalanta Spalla 1. 1. E il posticipo Sassuolo Milan. Io non lo cambio, ce l'ho già in testa. X. 2. Bene, avete preso nota? Benissimo. Mi sa che la 2, lo sai? Sassuolo Milan. Puoi cambiare? Forse no, è che no, tutte no, le volte cambia questo. No, non si può. Come quando gioca a carte, cari la carta. Sto già avanti di 3, quindi vincerò di 2. Vabbè, dai. Allora, io saluto e ringrazio tutti. Giovanni Capuano, Pierluigi Parro, ci troviamo domenica con tutta la compagnia dalle 17 fino a domani alle 18. Dura. Beh, che alle 18 abbiamo fatto lo stesso pronostico. Domani fino a domani sera, 20:45. Domani vi lascio Pardo con Oldani a parlare di cucina. Domani abbiamo la zucca, come dice giustamente De Luca. E gli ospiti sono. Giletti e. Non se la ricorda. Camila Rasnovic. Tutto. Ok, sempre. Domani si parla di zucca con Pardo e Oldani. Noi ci sentiamo domenica e poi tutti convocati, ovviamente, lunedì. Giorgio Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Ragazzi, abbiate pazienza, oggi è andata così. Ciao. Ciao. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti.